momenti davvero strani ricorrono i nostri intellettuali quando sono presi nel furore delle loro eterne polemiche. Su Repubblica di lunedì scorso, per dirne una, Enzo Siciliano, ansioso di dare il fatto suo a Giuliano Ferrara, che ha osato parlare male di Pasolini per via di quella vecchia poesia di solidarietà delle forze dell'ordine contro gli studenti eversivi schierati a Valle Giulia, accusa il povero Giulianone non solo di essere stato a suo tempo uno di quegli studenti, cosa che l'interessato non ha mai nascosto, ma di essere stato tra loro il primo della classe e quindi più degli altri responsabili delle future nequizie. E per avvalorare l'argomentazione aggiunge che Ferrara era uno che poteva anche conoscere le assurde tesi di Stalin sulla linguistica e tenerle per buone, perché i comunisti italiani di quel tempo erano in parte così. Sarà, eh? A me non risulta che Ferrara si sia mai occupato di linguistica, e poco comunque me ne importa, nel senso che credo che di ben altro e male fatte lo si possa o si debba accusare. Sospetto fortemente che il riferimento di Siciliano al marxismo e alla linguistica di Iosif Vissarionovich Stalin, che è uno di quei saggi che si citano sempre senza averli mai letti, contenga una di quelle oscure allusioni traversali destinate a passare sulla testa dei lettori ad essere comprese da pochi iniziati, quelle che piacciono tantissimo ai polemisti. Ma mi ha colpito quell'aggettivo assurdo applicato alle tesi di Stalin sulla linguistica. Io quelle tesi le ho studiate, mi è capitato anzi di riferirne in un libro che ho scritto e pubblicato in impari collaborazione con Silvio Ceccato, e posso assicurarvi che non contengono niente d'assurdo o di delirante, è capace di infiammare la mente di uno studente ingenuo e spingerlo sulle piazze a fare a botte con la polizia. Tutt'altro, sono ragionevoli e ponderate. Figuratevi, l'autore raccomanda di attenersi agli studi linguistici tradizionali, nella grande tradizione del comparativismo ottocentesco, esprime la massima diffidenza verso le moderne tendenze innovative in senso formalistico strutturale. Non diversamente si sarebbe espresso in quegli anni il più tradizionalista dei docenti universitari di glottologia, e non a caso l'edizione italiana, che è stata pubblicata da Feltrinelli nel mitico 68, è curata e prefata da Giacomo Devoto, che in quegli anni della contestazione studentesca era uno dei bersagli più noti. D'altronde, essendo quel saggio apparso nel 1950, 28 anni dopo il corso del De Saussure, 21 dopo le tesi del Circolo di Praga, 11 dopo i fondamenti della fonologia del Trubetskoi e uno appena prima del linguaggio con la tabella di Cecatiev, è piuttosto evidente che dal punto di vista linguistico Stalin, con rispetto parlando, era assolutamente conservatore. Ora, in questo non c'è niente di straordinario. Quello per cui allo sviluppo politico e sociale debba corrispondere più o meno automaticamente un'evoluzione altrettanto radicale nel campo delle scienze e delle arti è un concetto caro allo storicismo, particolarmente a quello marxista, ma nessuno ha mai sostenuto che i due aspetti debbano procedere parallelamente nella coscienza dello stesso individuo. Si può benissimo essere conservatori in politica e rivoluzionari dal punto di vista scientifico e viceversa. È una contraddizione, sì, ma di contraddizioni ce ne sono tante. Tutti sanno che Napoleone amava la follia, la musica di Paisiello, e detestava quella degli autori che nelle storie della musica oggi vengono definiti comunemente napoleonici, non so, spontini, quella gente lì, no? Non gli passava neanche lontanamente per la testa l'idea che la sua attività di leader politico e militare avesse contribuito a creare una società che potesse anche non condividere i suoi gusti in fatto d'opera lirica. Stalin si considerava marxista e probabilmente era convinto di aver contribuito a costruire una società diversa da quella che aveva trovato, ma non vedeva niente di strano nel raccomandare come oggetto di studio, diciamo pure raccomandare, anche se le sue raccomandazioni avevano una certa cogenza, nel raccomandare come oggetto di studio una tipica manifestazione della scienza borghese. Naturalmente, chi proprio non può sopportare le contraddizioni ha sempre aperta la possibilità di negarla. Non è difficile, non c'è nessun motivo al mondo per considerare Stalin personalmente rivoluzionario. Lo era stato da giovane, nel senso che aveva cospirato contro lo zar e preso parte alla rivoluzione d'ottobre, ma poi ha smesso presto. Dal 27 in poi i suoi sforzi sono stati incessantemente rivolti alla conservazione dello stato di cose esistente. E le tecniche che ha impiegato non erano particolarmente innovative. Ha eliminato i rivali politici per via giudiziaria, ha massacrato gli oppositori, ha stabilito un regime di polizia, ha rafforzato il potere della nazione dominante su quelle sottomesse. non ha fatto nulla di diverso da quanto si faceva da sempre nella sua situazione. E quando uno è abituato a difendere lo status quo in politica, nessuno può stupirsi se lo difende anche in altri campi, compreso la linguistica. Per cui accusare un eminente giornalista conservatore di essere stato stalinista da giovane è abbastanza insensato, nel senso che ben lungi dall'essere un motivo di biasimo, corrisponde a un'attestazione di coerenza, cioè a un complimento. Scusatemi se scherzo su degli argomenti seri, ma in questi giorni siamo stati afflitti da una polemica abbastanza sciagurata, quella sul numero delle vittime del comunismo. Molte persone rispettabili, per esempio Luciano Canfora, hanno risposto alle denunce interessate dei vari Courtois, elencando i milioni e milioni di vittime che la ferocia dei vincitori di oggi ha prodotto nella sua storia sanguinaria. Se ci si mette a riflettere seriamente sui conflitti di questo nostro secolo, ci si accorge che nessuna causa, e quella del capitalismo liberale meno delle altre, è innocente. Canfora in particolare ha osservato che l'evento cruciale del XX secolo a questo riguardo è stata la Prima Guerra Mondiale, un evento rigorosamente borghese, almeno dal punto di vista di chi l'ha voluto e diretto, che pure ha rappresentato il più grande massacro della storia, nonché quello che ha reso possibile, anzi ha determinato quelli che vi sono seguite. È tutto vero, anche se in mano a persone meno serie di Canfora polemiche di questo tipo corrono il rischio di esaurirsi in una serie di precisazioni quantitative di pessimo gusto, ma chi crede ancora nella causa della trasformazione della società farà bene a ricordare che l'errore più tragico che i rivoluzionari possano compiere è quello di adottare i metodi e le argomentazioni dei loro nemici.